Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Di nuovo buonasera a tutti, questo è sabato 30 giugno del 2018, Master Nick al microfono di Resto Radio Convento, un altro sabato dinner and dance, e continuiamo il nostro anche giro geografico, perché ci piace stare un po' in vari posti del nord centro Italia, grazie a tutti coloro che vengono ai nostri microfoni e chiacchierano un po' con noi. Siamo stati in questa serata a Reggio Emilia, siamo stati a Bergamo, in provincia di Brescia, in tanti posti. Adesso ce ne andiamo a Milano a festeggiare il futuro matrimonio della nostra amica Patrizia, che abbiamo ai microfoni. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Che ha lasciato la voce alla console del DJ, gliel'ha regalata e mi ha detto: guarda, è la mia festa, quindi voglio farti un dono, ti regalo le mie corde vocali. E il nostro DJ se l'è prese con piacere, perché le corde vocali a Patrizia sono di inestimabile valore. E sì, poi tra l'altro io sono una fan del Liga, quindi Urlando contro il cielo è uno dei miei motti. T'ha spezzato, bro, t'ha spezzato le... Anche perché noi la mettiamo spesso, è una delle canzoni di punta della fine della nostra serata dell'Elicomania. E quindi sono contento che ti abbia, ecco, conquistato anche il cuore. Quindi vabbè, dai, va benissimo con la voce che hai, non ti preoccupare. Grazie. Patrizia da Milano, che si sposa, da quanto mi hanno detto. Eh sì, il 7 luglio. 7 luglio, quindi siamo vicini, cioè più che vicini vicini, perché è, cos'è, venerdì prossimo, sabato prossimo, quindi mancano proprio 6 giorni. E mi sa che è anche il momento giusto per raccontarci le sensazioni ormai della vigilia. Come ti senti? Allora, emozionata. Intanto a che punto sei? No, direi che ho fatto quasi tutto. Tutto pronto. Devo a parte recuperare la voce, quella ci vuole. Perché non vorrei mai, Patrizia, sì! No, cioè, devi essere bella convinta. No, al massimo, no, io volevo fare lo scherzo al mio futuro marito. Sì? E dire, guardarlo e dire tipo no. Aia. E poi rimangiarmelo, però mi ha detto che vale la prima risposta. Sì, è vero, per legge. Perché secondo me c'è stato un fenomeno che l'ha fatto e poi è rimasto fregato. E da lì in avanti non l'hanno messa come regola. Peccato. Però sarebbe, è vero, sarebbe molto simpatico. Sì, comunque le mie amiche lo sanno, lo farò un po' penare. Sì. Se lo guarderò e dirò... Ti prendi il tuo tempo, sì. Come classiche donne sanno fare. Ma dai, sì. Quei secondi di silenzio che sono però, insomma, pesano come un macigno. E beh, però ci sta un attimino di suspense, crea un po' quella aspettativa di dire e mo che mi dice. Però perdonami, io sento un sapore non proprio milanese nella tua voce, corretto? No, è correttissimo, io sono di origine siciliana. Capivo. Anzi, dicevo Bolzano del Nord una volta. Bolzano del Nord, la bellissimo mare di Bolzano del Nord che tutti conosciamo. No, la buonissima arancina. L'arancina, la famosissima arancina. Di dove? Dalla Sicilia? In provincia di Palermo. Provincia di Palermo. E ti sei, come spesso chiediamo, mossa verso il nord per lavoro, per amore, per... No, voglia lavoro, di cambiare vita? Per scelta. Già avevi un lavoro o sei andata a cercarlo a Milano? No, ho fatto un master, quindi l'ho trovato a Milano. Ah, sei andata per il master, immagino, quindi. E master in cosa, se posso? Risorse umane. Risorse umane? E lavori sempre in quel campo? Ti piace? Contatto con le persone? Assolutamente sì. Ok. Le persone possono solo migliorare, farmi migliorare. Bello, mi piace questo. E approfitto della tua competenza in materia. Cosa si cerca al giorno d'oggi in una persona? Anche la perché, perdonami. La voglia di crescere. Perché, infatti, quello lì volevo arrivare. Nel primo incontro con una persona la competenza non si può valutare. Spesso un curriculum parla, ma non sai quanto... Non mi pare lavorare la sera. No, tranquilla. Io ti prego. No, non ti voglio far lavorare. Però è curioso. Però dicevo, un curriculum non racconta la competenza o l'affidabilità di una persona. Quindi a te personalmente cosa colpisce? L'interesse, la motivazione e come la persona ti risponde, l'atteggiamento. Okay. L'atteggiamento. Quindi propositivo, insomma, serio. Competente, che sappia le cose. Brava. E ti capita di tagliare anche delle teste? Cioè, nel senso di dire dei no pesanti? Aspetta, Mister No era quello di Mac Buongiorno, mi pare. Ancora non c'è stato la Mister No. No, era per capire se sei una abbastanza, come dire, buona d'animo e dici, non usi parole dolci. Bontà nel mondo di oggi, una persona deve guadagnare per vivere. esiste competenza e, come si suol dire, il rapporto qualità prezzo. Se vedi, ti spendi, se non vali no. Io avevo già capito che la Patti è una che sa il fatto suo, è una decisa, è una decisa. E chi è il fortunato che ti porterà all'altare? Giuseppe, anche lui siciliano o l'hai conosciuto qui? No, lui è veneto. Madonna mia, cos'è? Il giro del mondo in 80 giorni. C'è una siciliana che va a Milano, lui veneto, e vive anche lui a Milano. Certo. Anche lui per lavoro. Certo. E vi siete conosciuti a Milano. In che occasione? Concerto di Ligabue. Sì, tributo a Ligabue. Ah, tributo a Ligabue. Quale dei tanti, se posso chiedere? Ti ricordi? Blues House, certo. Blues House? Blues House. No, beh, magari ne hai sentiti tanti e non ti ricordavi qual era il gruppo che suonava. Blues House, perché ci sono tante tribute band di Ligabue. Forse è uno dei più coverizzati, uno dei più presenti come tribute band. Qual è la tua canzone preferita? Ce ne sono tante. Una, scegline una. La tua canzone. Hai un momento Dio. Hai un momento Dio. E la vostra canzone invece? Io e te. È quella di vivere una, come nelle favole di Vasco Rossi. Ah, come nelle favole, come nelle favole. Quindi vi siete scelti l'antagonista musicale di Ligabue. No, perché lui è fan di Vasco. Ahia, non vi picchiate mai quando state insieme? Gli per questo. Gli opposti si attraggono. Dici? Certo. Non avete mai discusso dal punto di vista musicale? Sai che c'è... Non c'è tanto da discutere, secondo te mi metto a discutere? No, beh, no. Per quello ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. E no, perché sai che c'è un po' questo questa diatriba di chi sia il re del rock in Italia tra Vasco e Ligabue, non si trovi mai una risposta. Allora, Vasco, io adoro Liga, però Vasco negli anni 80 ha segnato, è vero, la storia del rock all'inizio, poi è cambiato, comunque si è un po' ammorbidito, se così vogliamo dire. E, entrambi, cioè, se parliamo di rock vero, non è un rock, cioè non è il rock inglese, non è, vero, è vero, c'è una differenza, è un rock pop, rock italiano, rock italiano. E cosa vi ha conquistato uno dell'altra? Parlo di Giuseppe chiaramente, non di Ligabue. Il fatto è che comunque ci ha saputo fare. Sì? È stato bravo a corteggiare? Ti ha corteggiata? Sì? Quanto ci ha messo a conquistarti? Ma un... 5 minuti. Ah, non pensavo. 5 minuti. 2 mesi. Certo. 2 mesi. Bravo. E quindi è stato l'uomo di una volta. È stato tenace. L'uomo di una volta. Che non, no, nel senso che non si è arreso alla prima difficoltà e ha puntato l'obiettivo, nel senso buono del termine, e ha voluto raggiungere fino in fondo. Da quanto vi conoscete o quanto tempo un vi... Un anno e mezzo. Pochissimo. Sì. Ma non è la storia d'amore per eccellenza. Ma no, dai. Vabbè, però in un anno e mezzo per essere perfetti estranei ad arrivare all'altare vuol dire che qualcosa sotto di forte c'è. Speriamo. No, speriamo, devi essere convinta tu, amica mia. Sono convinta. E allora, e allora. Tra l'altro è così convinta e ha così voglia di festeggiare che con le sue amiche che sono venute qui a trovarla hanno deciso di festeggiare con un colore che è quello chiaramente della festa, il nero. Perché sono tutte vestite, o praticamente tutte vestite di nero, e quindi c'è questa grossa felicità, giusto? No, perché le mie amiche il nero è elegante. Ah, è per l'eleganza. Certo. Io pensavo che fosse tipo a lutto, perché non volevano perderti nelle vostre, no, serate. No, non avevano l'ora di vedermi felice, solo per, sì, l'eleganza. Solo per l'eleganza, certo. bene, questo mi piace. Perché magari tante ce lo dicono, perché di solito facevamo la serata amiche, ora si sposano, la vedremo più. No, invece tu prometti, prometti che non le perderai di vista. Assolutamente no. Brava. E a proposito di amiche, chi ti ha accompagnata questa sera, al di là di loro due che sono qui? Chi c'è? Le mie amiche più care, che hanno condiviso con me nel passato, nel presente, e che nel futuro saranno con me per tutti i momenti che nella vita di una persona ci possono essere. Bello, bellissimo. Le vuoi presentare anche? Vuoi dire chi sono? Come si chiamano? Va bene, allora c'è Silvana, Gloria, Franca, e Maria, Loredana, Lavinia. Le dite tutto, bravissima. E chi c'è ai microfoni qui con noi invece? Silvana e Gloria. Oh, Silvana e Gloria, dai, volete fare un saluto? Volete dire qualcosa alla Patti? Ciao Patti, sei una persona speciale, sei unica e ti vogliamo bene. Che bello, sembra un'intervista di Barbara D'Urso. Bello, bello, profondo, vai. L'occasione è questa per augurarti tutta la felicità che meriti. Bello, bello. Da quanto tempo aspetti la felicità, Patti? Questo tipo per arrivare al matrimonio un po'. Un bel po', un po'. il resto si ringrazia quello che si riesce a costruire. Brava, brava, mi piace il tuo stile, il tuo modo di vivere e di prendere le cose. Allora dai, ne approfitto visto che mancano pochi minuti, vuoi dire qualcosa, vuoi fare un saluto, vuoi, hai un microfono davanti, vuoi comunicare qualcosa al mondo? Cerchiamo di essere tutti sempre sereni e sorridenti. Bello, bellissimo messaggio. Vuoi salutare qualcuno in conclusione? No. No, vabbè. Tanto il mio lui a quest'ora dorme. E quindi, beh, ma ti può risentire, eh? Ti può anche riascoltare nei prossimi giorni. Quindi. Allora è stato citato già con il pensiero così. Ma quanto mi piace la Patti. Ha un atteggiamento veramente fantastico. Allora, grazie mille a te innanzitutto. In bocca al lupo per il tuo brevissimo matrimonio. Tra poco, quindi ci siamo. E festeggerete a Milano? Farete tutto in zona Milano? Ok, già hai prenotato anche il viaggio di nozze, hai pianificato? Dove vai di bello? In America. America? Quindi lontano, lontano, lontano. È il viaggio che hai sempre sognato, ci sei mai stata? No, non ci sono mai stata. Prima volta quindi? Sì. Prima volta. Per entrambi. Dai, dai, dai, vedrai che sicuramente ti divertirai. Si vede che sei una donna di mondo comunque, che ti piace vivere, ti piace vedere e curiosare, quindi sono certo che ti divertirai. Grazie di nuovo ragazze e buona grazie fine festa. Grazie a te, buon lavoro e grazie di tutto. Ciao! Ciao.